24 mattino. 8:17 minuti. Oscar Giannino oggi ha una polo e un maglioncino blu. Sì, ma perché? Perché? Mi spieghi perché hai questo senso? Quando verrai nudo dirò che sei nudo. Quando vieni con la marzina dirò che porti la marzina. Va ma c'è bene, tanto va da bene, discutere va bene, oggi, caro Oscar. Sì. Allora, non so se cosa ti abbia colpito in maniera particolare oggi. Ho discusso nella prima parte, è bene ricordarlo ora. Abbiamo fatto la filologia di questa bandiera di guerra del secondo Reich che è apparsa dentro questa caserma. Sì, e voglio dire perché è importante, siccome su questo molti ci criticano, ma sono dettagli, sono sciocchezze. No, la mia opinione, poi mi interessa anche ovviamente la tua, è... la bandiera di guerra di uno Stato nemico, nemico perché quello Stato era nemico, noi abbiamo fatto la prima guerra mondiale, non dovrebbe stare in un'istituzione pubblica, in un ufficio pubblico, in una caserma, non ci dovrebbe stare nient'altro, cioè al massimo la sciarpa della Roma o della Juve, ma non ci può stare un simbolo politico o il simbolo di un altro paese. Per di più, la bandiera del Secondo Reich è un simbolo adottato dai nazisti tedeschi perché finiscono in carcere se adottano quelli del Terzo Reich. Quindi io non metterei la croce dei Templari e la croce di guerra in nessun ufficio pubblico. Questo per chiarire, perché vedo che ha appassionato molti. Poi se non siete d'accordo va benissimo. Ma guarda, io ti dirò, io non ho dubbi sul fatto che sia una cosa impropria, sono allarmatissimo dalle migliaia di tweet che hanno avuto ieri coloro che hanno dato della capra al ministro dicendo non sai nulla, imbecille e di peggio, perché quella è una bandiera è la bandiera di guerra della Marina, del Kaiser, non c'entra nulla, vi volete inventare problemi che non esistono. La cosa più grave è la menzogna in malafede che ho visto ieri imperare nella difesa da parte di chi si sciacqua la bocca ogni minuto la parola patria ed è diventato uno non solo che difende una delle bandiere di guerra contro cui sono morti 650.000 italiani, perché per me è un paradosso, non mi meraviglia viste le puttanate che dicano anche questo, ma il punto è un altro: quando si inizia a mentire in pubblico fingendo di ignorare che quei vessili di guerra furono dall'indomani della sconfitta tedesca i simboli su cui vennero riempite le piazze di tutte le associazioni germaniste che negavano la sconfitta della prima guerra mondiale, la negavano dicendo è stato un colpo alla schiena, noi non abbiamo mai perso nulla. Questa base di rivendicazione storica revisionista era la base di tutte le associazioni nazionaliste, gli Stahelm, gli Elmi d'acciaio e così via, che poi confluirono nel DAP, che poi confluirono nello SDAP, cioè il Partito Nazional Socialista. Chiunque abbia letto 5 righe del Mein Kampf sa che questa è la base, quelli erano i vessilli. Che io adesso debba credere che il carabiniere è scritto a storia non ne sapeva nulla, allora questo diventa il paradosso nel paradosso. In Italia adesso fingiamo che i simboli nazisti, nazionalisti, su cui sono morte centinaia di milioni di persone, per quattro straccia imbecilli che dicono di essere patrioti, fingiamo di non sapere che sono i simboli delle stragi che abbiamo inflitto a tutta l'Europa. Quando si arriva a questo, secondo me c'è un campanello d'allarma. E per favore ascoltatori, non mi dite che noi vediamo i rischi dove non ci sono, i quattro ragazzi di Salvini. Chi inizia a dire quattro ragazzi ha un criterio che gli è venuto meno, padrone, ma la risposta non può che essere all'altezza, perché quando sui simboli nazisti si dice ma no, poveri ragazzi, ma era studente a storia il carabiniere, cosa ne vuole sapere? Non c'era un comandante in caserma che sappia che cos'era quella roba lì? O i comandanti sono conniventi? Bisogna coprirli? Dite caccia la voce perché sono come sempre troppo al di là? Oppure è molto al di là? Chi vi racconta che non lo sanno? Chi vi racconta che hanno quelle bandiere? Perché sono solo dei ragazzi inconsapevoli, ignorantelli. Ma per favore. Vabbè, siamo proprio cult, però se qualcuno ci dice come fa Anna e se ci fosse stata la falce e martello, ma andava tolta anche la falce e martello, ma non c'è neanche discussione, simboli politici in una caserma, in un ufficio, no. Buongiorno Giorgia Meloni, che è qui con noi. reduce di due giorni di congresso, oggi ampiamente raccontati nei giornali e quindi anche nella rassegna stampa. Qual è il, come dire, il senso per di cui è più contenta dopo questa come maratona? Beh, direi che sono, diciamo, contenta complessivamente del fatto che si sia capito l'obiettivo che ci siamo dati con questo congresso, perché insomma, i congressi servono sostanzialmente a come posso dire, aggiornare la proprio percorso, il proprio lavoro e anche i propri obiettivi. Io penso che sia chiaro a tutti che Fratelli d'Italia ha fin qui, diciamo, centrato l'obiettivo che si era dato quando è nato 5 anni fa, cioè mettere in sicurezza, diciamo così, la storia della destra di Grazia, la storia della destra italiana, che rischiava di scomparire per la prima volta al Parlamento in 70 anni. Abbiamo centrato quell'obiettivo. Oggi Fratelli d'Italia è oggettivamente un partito con il quale bisogna fare i conti, è il quinto partito italiano, è un partito rappresentato in entrambi i rami del Parlamento, in tutte le regioni, vabbè, insomma non vado lì a fare i numeri, e quindi ci possiamo dare, secondo me, un obiettivo più un obiettivo più ambizioso. E quell'obiettivo, secondo me, è non avere più solo l'ambizione di rappresentare la destra, soprattutto in un'epoca che è post-ideologica, ma provare a parlare a tutti quelli che io chiamo i patrioti d'Italia, intendendo per patriota non un concetto antico, risorgimentale, come posso dire, semplicemente eroico dell'amor di patria, ma un concetto che secondo me è molto moderno e molto quotidiano. Insomma, i patrioti in questo tempo sono gli imprenditori che non delocalizzano. Patrioti in questo tempo sono le coppie che mettono al mondo un figlio magari con un contratto precario, sono gli operai che fanno bene il loro lavoro, sono i capitani d'impresa, sono le maestre, insomma, poi ieri ne ho raccontati tanti, però ecco, un'idea moderna. Io vorrei parlare a tutti gli italiani che non ce la fanno più a vedere l'Italia trattata come se fosse insomma così una nazione destinata a scomparire o dalla quale scappare o che non ha possibilità. Quindi io dico, adesso noi ci mettiamo a difendere il nostro lavoro, le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri confini, la nostra identità, e poi parliamo di tutto il resto. La prima domanda che mi viene in mente è sulle politiche della famiglia. Si è discusso tanto di questo bonus bebè, che adesso viene rinnovato però con il primo anno a, diciamo, quota piena e poi dimezzato nei due successivi. Ma qual è la vera strategia che si dovrebbe seguire per incentivare le donne a poter fare figli e i padri a essere padri e, diciamo, e combattere la crescita zero che affligge questo paese? Guarda, il problema è che se noi decidessimo davvero, e io spero che lo si decida, perché ho chiesto tra l'altro ai eventuali compagni di viaggio del centrodestra di mettere al primo punto di un programma eventuali compagni di viaggio? È un po' freddo come... Dobbiamo parlare di varie cose, ho detto, ripeto, che insomma voglio fare la coalizione col centrodestra, ma le coalizioni non si fanno più niente, no? Scusate, ma diciamo la voce non è il mio forte oggi, e ho chiesto di mettere al primo punto, diciamo, il più imponente piano sulla... Vabbè, è il programma del centrodestra. È una natalità di così, ragazzi, non posso dire niente. Allora, a proposito di eroi a fare figli, abbiamo delle prove. Allora, il più imponente piano di sostegno alla natalità della storia d'Italia, e credo che bisogna fare i conti con il fatto che non è un semplice incentivo che serve. Cioè, quello che a noi serve. Cioè, no, non basta il bonus. No, il bonus va bene, tutto quello che si fa va bene, per carità. Io dico che purtroppo non risolverà. Cioè, tu affronti seriamente la questione della natalità in Italia, se contemporaneamente dai sì dei sostegni, la nostra proposta è quella di un reddito d'infanzia, diciamo, molto meno depressivo del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, perché i figli creano soprattutto alla lunga, diciamo, ricchezza economica, perché noi abbiamo questo problema, no? Cioè, noi abbiamo un problema della tenuta dello Stato sociale, perché avremo una società che invecchia sempre più pensioni da mantenere, sempre meno persone che lavorano per mantenerle, cioè è semplice. Quindi c'è sì un tema di sostegni economici, ma c'è un tema di servizi, c'è il problema degli asili nido, che secondo me dovrebbero essere, diciamo, disponibili a tutti, io dico gratuiti. C'è il problema di fare un'alleanza con le imprese per far assumere le mamme o le giovani donne in età da lavoro, e questo si fa aiutando le imprese quando arriva la sostituzione di maternità. penso che le madri non gli puoi dire che il congedo di maternità vale per diciamo i primi sei mesi, dopodiché te lo pago al 30%, perché uno non smette di essere madre al sesto mese che suo figlio è nato, e quando tuo figlio sta male e prende la varicella è un problema. E queste, certo, sono le questioni che le famiglie affrontano ogni giorno. Ma vi pare che noi abbiamo l'IVA sui prodotti per la prima infanzia ancora non al 4%, non al livello dei generi di prima necessità, con quello che costa oggi il latte artificiale, se non hai il latte da dare a tuo figlio perché non riesci con l'allattamento al seno? Cioè, a me sembrano cose, voglio dire, di buon senso. Poi questa è anche una società che proprio i bambini non è che li sopporti molto, nel senso che non ci sono proprio, cioè, prova a muoversi, è difficile con un passeggino, non ti danno neanche il posto riservato sul treno, cioè accadono delle cose che sono folli. Però accadono anche perché evidentemente questa non è considerata una priorità da noi, comunque, no? Quando la mamma col bambino, sì, non è che tutti si scansano come accade, no, in altre società. Ah, oddio, la mamma col bambino, no, insomma, per cui c'è una questione culturale che la politica deve sapere interpretare, dal mio punto di vista. Oscar. Senta, posso chiedere, buongiorno Giorgio, ieri Crosetto ha entusiasmato, Guido Crosetto, ha entusiasmato la platea, e a un certo punto ha riportato una frase che secondo me alcuni quotidiani, a cominciare dal Corriere della Sera, giustamente riportano, e la giro anche a lei per sapere una sua opinione su questo, perché a un certo punto Guido Crosetto ha detto: beh, certo dovremmo porci un problema se nei sondaggi Giorgia Meloni è così popolare e il partito sta al 5%. Allora, ci sono diverse maniere di interpretarla. Lei ci ha detto all'inizio, il congresso dice comunque la sopravvivenza l'abbiamo portata a casa, adesso obiettivo più ampio, quindi questa può essere la risposta diplomatica, politica, e la capisco. Poi potrebbero essercene anche altre, però, cioè una carta per il futuro, un futuro che fino a che c'è un tipo non si può sperimentare fino in fondo. Lei come la vede? No, io credo che, insomma, che Guido facesse, devo dire, una critica o un'autocritica, ma insomma più una critica complessiva, diciamo, al movimento, nel senso che il suo fosse un tentativo di spronare i dirigenti, i militanti di Fratelli d'Italia, dicendo in buona sostanza, guardate che, perché lui ha detto questa frase a un certo punto, guardate che noi abbiamo in mano un diamante e forse non riusciamo a utilizzare quel diamante, ma il diamante sarei io non sono completamente d'accordo. Siamo all'apologia. Lettura, nel senso che, esatto, era detto una cosa apologetica. No, io non, è una cosa che sento dire spesso, no? Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni è quello che si vede di Fratelli d'Italia, anche, diciamo, per la consentitemelo, indisponibilità delle volte da parte della comunicazione a far vedere altro. E noi abbiamo, chiaramente paghiamo lo scotto di avere un piccolo gruppo parlamentare che è figlio delle scorse elezioni, no? Di 5 anni fa, quando non avevamo neanche il 2%, adesso siamo stimati intorno al 6%, però abbiamo sempre quel gruppo parlamentare. È difficile far girare persone e far vedere che c'è una classe dirigente, perché quello che ho visto io in questo fine settimana, permettetemelo, è il congresso di un grande partito, no? Di un partitino. Allora, purtroppo in questi anni si è vista Giorgia Meloni, purtroppo per me e anche per voi, quasi esclusivamente, io, diciamo, mi do come obiettivo quello di far vedere anche il resto della classe dirigente, di cui Guido Crosetto, tra l'altro, è un graditissimo e straordinario ritorno. Lui ha detto ieri che io l'ho letteralmente stalkerizzato per farlo tornare in politica attivamente, so che la politica gli manca, ha deciso di farlo, è sicuramente una persona che mi può aiutare anche a parlare, diciamo, a un mondo che è meno, diciamo, figlio della mia storia, delle mie corde, no? Perché poi servono anche persone che certe cose le abbiano fatto. Guido è un imprenditore, una persona che viene dal mondo liberale, che sa parlare a chi produce. Io gli ho chiesto di darmi una mano perché a quel mondo voglio rivolgermi, perché per quel mondo voglio dare risposte. Quindi sono contenta del suo rientro e penso che il suo fosse solo il tentativo di spronare i dirigenti e i militanti di Fratelli d'Italia a fare di più. Bene, e allora facciamo il punto prima di liberare la Meloni, che ha faccende importanti nel sostegno alla maternità. Ho fatto per voi un'eccezione. Facciamo il punto sul centrodestra, perché sembra un'alleanza che più si rafforza, più incassa nuovi pezzi, più aumenta la fibrillazione. c'è una torta importante, c'è la posta della vittoria in palio. Cesare sabato ha detto: beh, a me spettano 30 collegi perché vengo a fare la quarta gamba. E riuscirete a tenere insieme tutte queste aspirazioni? Ma guardi, lei quanti collegi vuole? Ecco, io penso che intanto dobbiamo cercare di essere d'accordo noi, e poi tutto il resto, anche diciamo su come comporre la coalizione, perché io voglio dire, non è che mi prendo tutto, Cioè Cesa io, non è no, nella no, coalizione Cesa, già? Per carità, no, non parlo di Cesa, figuriamoci, insomma era alleato con noi anche nelle elezioni regionali siciliane, non è, però insomma... Io non e sono chi solo è? Disperso senza fare nomi, ecco. No, di chi è? Ma dica più o meno per capire chi è che la preoccupa. No, è la cosa più banale, Alfano, insomma, no? Cioè io, diciamo, non vorrei, cioè io sono per la differenziata, ecco, mettiamola così. Sono una persona oddio, a cui cioè piace... la raccolta differenziata? No, sì, sono una persona a cui piace, diciamo, il cioè, materiale, è spazzatura. Il materiale pregiato, insomma, no? Perché poi no, non vorrei... diciamo che noi pensassimo adesso di poter diventare chi è? Diciamo il luogo, no? Il carro, cioè, quindi del Alfano è spazzatura. Così, il carro del vincitore su cui tutti salgono, ecco, questo non va bene. Io penso di aver avuto ragione quando nelle elezioni regionali siciliane ho chiesto, quando tutti dicevano che era indispensabile per vincere che non ci fosse Alfano, ritenendo che non sia affatto vero che 0,1 più 0,1 in politica fa 0,2, perché se tu sommi una delle debolezze alla fine produci una enorme debolezza, è meglio soli ma con una, cioè meglio in meno, diciamo meno persone ma con un'idea chiara, e questo è quello che io voglio fare anche a livello nazionale. Dopodiché non mi interessa i collegi, il numero dei collegi, ne parleremo per carità, e ognuno vedrà più o meno riconosciuto immagino il proprio peso specifico. Mi interessa che la selezione avvenga non su egoismi di partito, soprattutto su collegi uninominali, ma diciamo nel modo più meritocratico possibile. Io ho anche proposto le primarie di collegio, che secondo me sarebbero la soluzione migliore, ma se non si vogliono fare le primarie, che come primarie sappiamo, di collegio non piacciono a tutti, le primarie di collegio per scegliere i candidati. Berlusconi sviene se glielo dice. Oh, se invece le prime, beh, ma credo che probabilmente è anche un po' tardi, vabbè, insomma, comunque l'importante è che si scelga collegio per collegio la persona più rappresentativa per quel territorio, la persona più capace, la persona più adatta, e quindi io per questo lavorerò. Poi se per questo uno deve cedere un parlamentare, un candidato, o deve guadagnarlo, insomma è abbastanza secondario secondo me, ecco. Bene, grazie a Giorgio Meloni. Saluti anche alla Bib. Abbiamo la pubblicità, poi Oscar dobbiamo tornare sulle bandiere perché abbiamo suscitato molte reazioni. Ne leggiamo qualcuna. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. Allora, rieccoci, cani e gatti. Grandi complimenti a Oscar per la lezione di storia, veramente notevole, sulle bandiere, i simboli che sono sempre la chiave di un tempo, ma anche qualche critica. Intanto qualcuno ci dice: ah, lo spot elettorale alla Meloni col bambino sul fondo, anche col bambino sul fondo. Scusate, qui veramente... mi secco. Noi chiamiamo le persone del giorno per potervele raccontare e facciamo pure fatica a convincerle. Qualcuno sta funivia, qualcuno allatta il bambino, ma se ve le portiamo non è che possiamo criticarle perché sono in famiglia, magari dopo 3 giorni di congresso a Trieste, quindi proprio assolutamente stupida. Invece da Twitter Giorgio Faso dice: ah, complimenti su Radio 24 per Luca Telesi, i simboli neonazisti e la falce e martello sono la stessa cosa. Guarda, lo dico provocatoriamente, sì, perché i simboli di partito, di confessionalità religiosa, non devono stare nei luoghi dello Stato. A casa tua puoi metterci quello che vuoi, pure la bandiera dei nazisti dell'Illinois. Nell'ufficio pubblico no, è un principio banale, però speriamo che alfabetizziamo qualcuno. Maurizio da Varese. Pronto? Sì. Buongiorno, complimenti, vi ascolto sempre. Grazie. Voglio sgomberare il campo, premetto che non sono un nazista, sono un anarco liberista come Giannina, eccetera. Però sono un po' stupito da questa cosa della bandiera, che sicuramente non va messa in un ufficio pubblico, ma non è una bandiera nazista. Questa è la bandiera della Germania Guglielmina, è precedente alla Prima Guerra Mondiale. E quindi non si può associare, io sono un appassionato di storia militare, sia di certo. E quindi questa cosa qui mi sembra un po', cioè si sta parlando di una cosa che non esiste. Però non hai sentito la prima parte. Se sei appassionato ti faccio una domanda, questa bandiera era o non era fissa nelle sedi e a tutte le manifestazioni degli Stahlhelm? Indico gli Stahlhelm perché forse qualcuno, almeno di non questa sono... sigla, cioè gli elmi d'acciaio, ha idea. No, non sono così specializzato. Ah, ecco, però, allora vai a vedere, non ti dico fidati di me, assolutamente no. Però vedrai che tutto il mito pangermanista del negare la sconfitta che porta alla confluenza di tutti questi movimenti poi nel Partito Nazionale Socialista vedeva nelle manifestazioni pubbliche, nelle sfilate in ogni comune tedesco con cui nasce e si sviluppa il consenso che poi porta ai voti al partito nazista, quel simbolo con le altre bandiere di guerra del Secondo Reich sfilare alla testa di tutte le bande e delle persone in divisa. Quelle bandiere lì sono state utilizzate per questo, portando alla nascita di un fenomeno storico. Se poi vogliamo negarlo, benissimo, però si tratta di negare ciò che dovremmo sapere e che dovremmo batterci perché la gente sappia. Allora, che un collezionista di bandiere non sappia questo, io non posso crederci. Che uno che dice che è appassionato di storia, perché il giovane carabiniere dice che lui si sta laureando in storia, e dice che è appassionato di quel periodo di storia, un periodo nel quale chi riveste oltretutto una divisa nel nostro paese sa che noi abbiamo combattuto dall'altra parte, mi pare molto improbabile che non lo sappia, tanto che mi sembra una versione confezionata per mettere tutto a tacere, tanto per cambiare, perché stiamo confondendo il prestigio dell'arma dei carabinieri, l'importanza dell'arma dei carabinieri, certo, col fatto che oramai non si può più dire niente. Se qualcuno stupra bisogna metterci sopra una lapide e non parlarne. Faccio un altro esempio, ma se uno andasse in un ufficio dell'anagrafe dell'Alabama e trovasse la bandiera dei confederati, ma che cosa vorrebbe dire? Dice, ah, però è una bandiera dei confederati, ma è chiaro che è un simbolo anche nel presente. È evidente che le vecchie bandiere vengono usate anche con un racconto nel presente. Va bene. Con noi Roberto Speranza, la sua foto è una delle, come dire, è su tutti i giornali, la foto di Grasso, Speranza, Fratoianni e Civati, i moschettieri della nuova forza. Speranza, iniziamo subito dalle cose perfide. La stoccata che è arrivata da Renzi, ospite di Fazio, se l'aspettava? Normale? La incassa senza colpo ferire? Quella, l'accusa di essere eterodiretti, insomma, di essere la maschera del potere di D'Alema? Pronto? Speranza? E Speranza non c'è. Oscar? Così chiudi l'argomento bandiera. No, io sulla bandiera non voglio più dire più niente, perché non voglio sembrare nemmeno che lo considero chissà che cosa. Quello che considero è che ieri mi ha molto colpito la reazione, che di massa era più favorevole alla difesa del carabiniere della bandiera. La famosa tesi di Salvini: sono solo quattro ragazzi. dietro la quale, lo dico con tutto rispetto per Salvini, ognuno fa i voti che vuole, però ci sono delle linee che quando si perdono poi diventano pericoloso averle perse, perché si comunica l'idea che quelle linee sono venute meno, e allora secondo me questo è un po' problematico. Chi fa informazione deve rispettarlo prima di tutti. Per me però quella è una linea oltre la quale io dico che devo fare informazione militante. Ma poi in un ufficio della Repubblica uno trova la foto di Mattarella e il tricolore italiano. Non mi fate essere banale fino all'inverosimile. Se bisogna ricordare, buongiorno. Questo però bisogna ricordarlo, come vedi, questo è Speranza, buongiorno. Buongiorno, era caduta la linea. Quando ho nominato Renzi è caduta la linea. Lei è sfortunato. No, dicevo, Renzi è andato subito da Fazio in contemporanea, poi è sagace comunicatore, quindi ha detto, piazzo questo titolo sui giornali, ha detto, ecco, mentre loro mettono in scena Grasso, il vero padrone lì è D'Alema. Ma a noi non interessa di Renzi, sinceramente. Abbiamo messo in campo un'alternativa che riguarda la vita delle persone italiane, che rimette al centro il lavoro, la scuola pubblica, la sanità, la ricerca, la lotta contro le diseguaglianze. Sinceramente Renzi mi sembra aver esaurito le sue idee per l'Italia e si occupa di D'Alema come se non avesse di meglio da fare. Noi di Renzi non ci occupiamo. Noi vogliamo occuparci dei problemi delle persone, delle piccole imprese in difficoltà, degli artigiani, delle partite IVA, dei giovani professionisti che non trovano lavoro, dei pensionati in difficoltà. Insomma, va bene, adesso allora si esponga. Se lei dice io non mi preoccupo di Renzi, noi siamo forti, dica quanto può prendere questa formazione, perché sennò poi siete cauti quando... Io non faccio numeri. No, li faccio. Ma quel che dico è che come un imprenditore che fa la previsione di quanti pezzi venderà. Lei pensa che prenderà più del 10%? Risponda sì o no. Ma sicuramente sì, ma il nostro obiettivo non è partecipare, è vincere. Quando si mette in campo una proposta per elezioni politiche lo si fa per vincere le elezioni, non solo per partecipare. Noi saremo la vera alternativa, la vera novità di queste elezioni. Salvini, Grillo, Berlusconi e Renzi sono personalità usurate che hanno già dimostrato agli italiani la loro incapacità di rispondere ai loro bisogni, alle loro domande. Grasso è l'unica vera grande novità di questa campagna elettorale, è una personalità di straordinario valore, un servitore dello Stato, una persona per bene, sobria, autentica. Io penso che quel che mancava a questo paese. E al centro cosa vogliamo mettere? Vogliamo mettere la vita delle persone. Basta teatrini, basta spot, basta tweet. Occupiamoci della vita delle persone. I 10 milioni di italiani che non si curano come dovrebbero, gli insegnanti arrabbiati per una riforma della scuola che li ha umiliati, insultati, certo. Chi vive il dramma del lavoro che è stato umiliato, svilito in questi anni. Ripartiamo dalla vita delle persone, questo è il nostro obiettivo. Speranza, cosa risponde a chi dice che a questa foto di gruppo bella con una personalità importante come Presidente del Senato e tre giovani manca una donna però? Aia. Ci deve essere un poltergeist da qualche parte. È ricaduta la linea. Vedi, sulla donna... Ma tu, Oscar, volevi parlare della Boldrini? No, però una donna una in generale. Qualunque, no, io credo volessi parlare della Boldrini. Perché è uno dei punti interrogativi. Non ho capito. Dove va bene la Boldrini? Ecco, io non l'ho capito, lo dico dal punto di vista allora anche dei nostri ascoltatori. Recuperiamoli o chiediamo subito. Sempre però che non sia una domanda di fronte alla quale la risposta non può che essere diplomatica, perché bisogna capire che... Però allora, io non ho capito al di là di cosa... È tornato cosa con noi. È caduta la linea proprio quando chiedevamo. Bella foto di gruppo, però manca una donna. Non solo una, noi siamo per la parità di genere. Se ci sono quattro uomini devono esserci quattro donne, per quanto mi riguarda. La parità di genere però non è fondamentale e dobbiamo recuperare. I quattro erano semplicemente i segretari dei tre partiti, ora siamo in una fase nuova, bisognerà costruire una proposta molto più equilibrata sul piano di genere. Oscar voleva chiedere una cosa su una donna in particolare. Sempre che sia una domanda alla quale sia possibile ottenere una risposta non troppo diplomatica, nel senso che molte si chiedono Grasso e la scelta e ne ha sintetizzato lei il carattere. Io aggiungo, è un carattere anche più, cioè, meno scontato di quanto non fosse uno dei vecchi leader eccetera eccetera, ma meno scontato anche dal punto di vista del profilo culturale, voglio dire, perché poi Grasso non è esattamente la riproposizione di un pezzo di storia del passato, è una persona la cui carriera e i cui valori sono in un filone più ampio che quello, diciamo, di D'Alema, Bersani, tutte persone che rispetto, ma che è una storia particolare. Però la domanda è, ma col Presidente della Camera Boldrini a che punto state? Arriverà, non arriverà, andrà altrove? Lei che pensa, Speranza? Ma io mi auguro che sarà con noi. Ho ascoltato un suo intervento qualche giorno fa in un'assemblea pubblica e ho condiviso dalla prima all'ultima parola le cose che lei ha detto. Io credo che lei sia una personalità straordinaria, importante, ha portato in questi anni un'agenda coraggiosa, progressista, che sicuramente sarebbe... Quindi lei vuole la sua... Boldrini, questo è il titolo, lei la vuole in questa formazione? È una persona che io apprezzo moltissimo. In queste ore è alle prese con la legge di stabilità, che è la legge fondamentale del Parlamento, dello Stato, e quindi non dobbiamo tirarla per la giacchetta, ogni parola in più sarebbe sbagliata, ma da parte mia c'è molto apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. Bene, allora ci ha dato anche un titolo, grazie a Roberto Speranza, definito Bob Hope da Giuseppe Civati, che ha fatto anche una battuta. Tu hai visto la battuta dei renziani che oggi hanno infilato in molti giornali? Quale? La battuta persa, finché c'è un seggio c'è speranza, cioè delle cose. Cioè, ma quando si arriva a questi acrimonie... Chi è che ha fatto questa battuta? No, l'ho trovata in diversi commenti, citata come attribuita nelle pezzi che ci sono in ogni giornale sulla reazione di Renzi e dei renziani. No, ogni giornale ha il pezzo oggi in cui dice partiti, non mi preoccupa, eccetera eccetera, molti riportano questa volta che evidentemente ieri girava finché c'è seggio c'è speranza. Però la cosa che io volevo dire non era la freddura che non mi fa neanche ridere, è che insomma possiamo fare ma una è micro qui Speranza è ancora collegato, l'abbiamo salutato, no? L'abbiamo salutato, perfetto, ok. No, l'abbiamo salutato, ancora, capito. La micro riflessione, l'acrimonia che esce in ogni legislatura in cui c'è un governo di centro-sinistra regolarmente si fraziona e c'è gente che se ne va e che gira la porta, è un problema storico, diciamolo pure, che è dal 1921 che è sempre la stessa storia, cambiano le impronte culturali, i punti di riferimento, ma questa incapacità di evitare le distruzioni personali, distruzioni perché nelle altre forze politiche le lotte, le contese ci sono, di leadership, di correnti, ci mancherebbe, ma quando l'odio distillato è una caratteristica solo della sinistra, o mi sbaglio secondo te, Luca? Ma no, dove non c'è battaglia politica c'è sempre tanto odio, no? E poi dove c'è interesse elettorale confliggente c'è odio, perché vedi, in qualche modo la dinamica della Lega e di Forza Italia è più chiara, cioè ognuno prende un voto in più e si vince, ma è un'alleanza che confligge per prendere più voti, mentre invece qui è una guerra fratricida, quello che prendi tu me lo togli a me e viceversa, non c'è un campo aperto. Federico da Milano. Sì, buongiorno. Buongiorno. Scusa la disturbo, era per questo, voi parlate bandiere, simboli, eccetera, eccetera, eccetera. Premesso che io non ho ideologie nostalgiche di nessun tipo, ma allora anche il tricolore è un simbolo, perché è nato senza stemmi in mezzo, poi ci ha messo lo stemma sabaudo, poi ci hanno attaccati i fasci e adesso siamo ancora col tricolore normale. Quindi se uno vuol vedere, c'era il tricolore della Repubblica Sociale con l'Aquila, col fascio. E per lei sono tutti uguali. Scusi, la prendo alla lettera. Lei sta facendo un discorso relativizzante per il quale il tricolore è uguale alle bandiere con cui i nazisti sono diventati partiti. Si rende conto di quello che dice? No, non sì, è no, lei sta dicendo questo. Lei sta dicendo simbolo. Questo. Ma poi, scusate, no, ma oggi veramente dobbiamo tornare. No, ma dobbiamo tornare sui banchi di scuola. Scusi, ma il tricolore è il nostro simbolo. Quello è il simbolo di un altro paese, di un'altra epoca storica, di un impero. Stanno lì a fare tanta cagnara per uno che ha messo una bandiera che perché quella bandiera è stata dal 1918 al 1933 il vessillo di chi ha fatto il Terzo Reich. È chiaro questo? Se per lei questo no, era il vessillo di quelli che dicevano non abbiamo perso e dovremo rifarne un'altra. E se per lei questo non ha un significato storico, benissimo, lo dice, io sono, la rispetto, per me ce l'ha, e dimenticare questo significa candidarsi a fare in forma diversa, la storia non è mai uguale, però danni uguali. Allora, questo per me è un confine di civiltà. Sì, sì, va bene, d'accordo. E allora, se va bene, va bene. Non dico mica che ha fatto bene a mettere quella bandiera. Oh, ecco, tutto, ma tutto lì. Ne sta facendo un caso. E ne sta facendo un caso perché nelle caserme di Forza Armata della Repubblica, se iniziamo... Ma la bandiera aperta il tricolore. Guardi, le dirò questo, le dirò questo, perché siccome non capita solo da noi questa faccenda, c'è in Europa un fenomeno di questo tipo. Questa estate, 3 mesi fa, è uscito un grande scandalo in Germania, hanno scritto Spiegel, i più grandi quotidiani tedeschi. Perché? Perché uscì che per non preoccupare troppo i tedeschi, traduco, per non avvalorare, portare nuovi voti all'Alternative für Deutschland, le autorità militari tedesche hanno nascosto che negli ultimi 3 anni oltre 200 militari appartenenti alle diverse forze armate, la Bundeswehr, eccetera, eccetera, sono stati beccati con simboli, bandiere, eccetera, eccetera, neonaziste. Allora, in Germania è uscito un enorme scandalo, perché dicono: siamo al punto tale che non bisogna dirlo in pubblico. Ecco, però, come vede, è un problema che in tutta Europa sta manifestandosi, come è evidente nel voto in tutta Europa, che ci sono nuove pulsioni che aggrediscono il malessere sociale, economico, nazionale, gli immigrati, eccetera, riproponendo, sia pur rivisti storicamente, quei miti del passato. Questo è il contesto nel quale ci muoviamo, non solo noi, quindi non è solo una caserma italiana, è un fenomeno e bisogna avere un certo occhio, tutto lì. Allora, interviene su Twitter nel nostro dibattito anche Simone Di Stefano di Casa Pound e dice: vabbè, ma potrebbe esserci anche un tricolore, però non dovrebbe starci neanche una bandiera americana. Oh ragazzi, ma no, è ovvio, nessuna bandiera. Ma come si fa a dire bandiera americana come quella nazista italiana? Ma voi siete matti, ma poi, ma nessuna bandiera ci deve stare. No, la bandiera dei paesi alleati, visto che facciamo parte della NATO, ci sono. Sì, ma non ci nella cameretta. Ma non è che c'è la cameretta. Se la bandiera americana non è una bandiera nazista, quello di Casa Pound che ti dice che gli Stati Uniti sono come il nazismo, si definisce, è al di là della mia trincea di civiltà. Infatti io non mi nascondo che chi mi dice una cosa simile, per me sta dicendo che le camere a gas sono uguali al capitalismo pieno di difetti americano. No, non sono uguali, punto. Sì, però non ci deve stare nessuna bandiera. Il pensierino, Oscar, il pensierino di conclusivo. Allora, torno a una cosa invece meno pesante, per così dire, e vi dico che sul progetto Economia del Corriere della Sera trovate oggi il posto annuale sulle liberalizzazioni. In Europa ha fatto il Bruno Leoni, l'Italia è settima, piano saliamo, ma sempre settimi siamo, e su ferrovie e telecomunicazioni andiamo bene, su telecomunicazioni, sulle ferrovie andiamo male. Mi dispiace, care Ferrovie dello Stato, che volete prendervi tutto, prendete questo approfondimento, perché alla fine mercati più chiusi significano, cari ascoltatori, che a pagare di più siete voi. L'unica bandiera che dovete sventolare oggi, domani, in tutta la settimana è quella dei cani e dei gatti.